l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Siamo qui anche oggi, come sempre, per raccontare l'Europa delle possibilità e delle opportunità. In queste puntate estive ci stiamo concentrando su delle tematiche specifiche e andiamo a raccontare tutto quello o tante cose che l'Europa fa attorno a questo ambito. Ci sono le Olimpiadi, siamo tutti molto sportivi in queste settimane, quindi abbiamo scelto di dedicare un'intera puntata al rapporto che c'è tra l'Europa e lo sport. Andremo a conoscere tanti progetti, tante attività su quello che è la promozione allo sport, ma non solo, perché lo sport è anche educazione, lo sport è tifo, lo sport ha tante facce e andremo a conoscere un po' di queste facce. Come sempre, euronetplus.eu è il portale di riferimento del network al quale apparteniamo, radio24.it invece è il nostro sito da dove poter poi riascoltare la puntata e trovare tutti gli Europost-it che sono le nostre dritte, i nostri suggerimenti, e poi ancora i social network, chiocciola Federico Taddia per Facebook e Twitter, lì mettiamo tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Si parte quindi per questa puntata tra sport ed Europa. Parlare di sport significa parlare di società, significa parlare di attualità, di contemporaneità, e quindi abbiamo deciso di iniziare proprio parlando di un progetto europeo che lega i migranti allo sport, progetto che si chiama MATCH, Migration and Sport, realizzare l'inclusione con attività sportive che vede in prima fila il la provincia di Bolzano. Diamo il benvenuto a Laura Savoia dell'ufficio sport e promozione della salute della provincia di Bolzano. Ciao Laura, benvenuta all'altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Che cos'è MATCH? MATCH è un progetto di partenariato di apprendimento Grundtvig, Lifelong Learning, quindi un progetto europeo al quale hanno partecipato 5 partner provenienti da 5 paesi dell'Unione Europea, incentrato sulla migrazione e lo sport, che aveva come obiettivo proprio valorizzare le potenzialità dello sport come strumento di integrazione, ed era rivolto a tecnici e dirigenti di associazioni sportive. L'idea ovviamente era quella di sperimentare buone pratiche, queste buone pratiche metterle a confronto. In particolare voi come provincia di Bolzano cosa avete realizzato? Noi abbiamo presentato una buona pratica che è una sorta di festival sportivo, si chiama Let's Play, ed è un festival sportivo diverso ed è organizzato annualmente da una ONLUS locale che si chiama OEV, Organizzazione per un Mondo Solidale, a Bressanone, qui in provincia di Bolzano. Ed è una festa di sport alla quale possono partecipare delle squadre di 5 persone e è dedicato all'integrazione, perché partecipano anche molte persone che per motivi diversi non sono nel mondo associazionistico sportivo e quindi si avvicinano a questo mondo, e da qui si sviluppano poi delle amicizie, dei contatti che permettono di avvicinare la popolazione locale ai migranti che fanno parte della cittadinanza. Quindi fare sport insieme, mettere insieme cittadini i nuovi cittadini su un campo da gioco, che è un campo dove insomma l'integrazione diventa quasi naturale, farlo sul territorio, perché finita la partita poi si è di nuovo insieme, non ci si incontra solo su un campo ma ci si incontra poi magari in piazza o al supermercato o in una strada. Questa è un po' la buona pratica che è stata sviluppata con questo festival che si tiene annualmente. E Laura, invece, le altre buone pratiche in che direzione andavano? Ma ad esempio il partner inglese ha presentato un'idea di accompagnamento alle Olimpiadi della comunità locale, dove sono stati presentati tutti i paesi, soprattutto quelli meno conosciuti, e quindi la popolazione locale con i migranti che venivano da questi paesi presentati ha fatto tutto un percorso di avvicinamento alle Olimpiadi. Quindi proprio di conoscenza dei paesi d'origine, diciamo. Esatto, mm-hmm. Esatto. Poi invece in Portogallo, all'USADA, hanno un progetto di un campionato sportivo di calcio, incentrato sul calcio questo, che cerca di coinvolgere anche tutte le persone che vengono da fuori. In Portogallo, tieni conto, la realtà è un po' diversa, sono dei migranti di ritorno che però comunque fanno poi meno difficoltà a ritornare nella propria comunità d'origine attraverso lo sport. Mm-hmm. E Match, linettaeo.et è il sito di riferimento del progetto. Laura, è difficile comunicare lo sport, la promozione alla salute oggi? Guarda Federico, lo sport ha un potenziale elevatissimo per l'integrazione, perché ti permette di entrare in contatto con tutti nella tua comunità, ma anche al di fuori della tua comunità. E la promozione della salute è un elemento sempre più attuale, che va a braccetto con lo sport. Sono due aspetti diversi, però fare sport promuove la salute, e promuovere la salute significa anche fare sport. Ascolta, l'Europa dà una mano in questo? Ci sono molti progetti che toccano e favoriscono questo ambito? Ma anche in Europa adesso è ben chiaro che lo sport ha tanto potenziale anche per la salute, quindi sempre più i due ambiti seguono strade che si incrociano. Poi tieni conto che in questo settennio in Europa c'è proprio un progetto specifico dedicato allo sport, mentre quando abbiamo fatto noi Match lo sport veniva visto come, diciamo, un mezzo per raggiungere il fine, nel nostro caso l'integrazione e l'inclusione. Quindi adesso anche l'Europa, l'Unione Europea, dedica proprio un progetto e un progetto proprio allo sport, quindi i progetti sportivi hanno uno status ancora più elevato. Certo, per mettere la qualità della vita al centro. Per qualità della vita non si intende solo la salute, ma si intende anche la convivenza attiva, la partecipazione e l'integrazione. Grazie davvero a Laura Savoia dell'Ufficio Sport e Promozione della Salute della provincia di Bolzano. Ciao Laura, buona estate. Grazie a te Federico, buona estate a tutti. Adesso un euro post-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. ANCI Lombardia promuove un percorso formativo di progettazione europea. A tutte le amministrazioni interessate a reperire fondi europei per la realizzazione di iniziative locali. ANCI Lombardia, all'interno delle attività del Dipartimento Europa, propone ai comuni associati un percorso formativo gratuito che consisterà in un seminario e in 4 workshop di progettazione europea, per una durata complessiva di 16 ore con insegnamenti di tipo pratico e interattivo. L'iniziativa nasce per trasmettere conoscenze utili e fornire strumenti pratici per l'accesso alle opportunità e ai finanziamenti europei. Tutti gli interessati sono invitati a contattare ANCI Lombardia entro il 16 settembre per comunicare le proprie intenzioni di partecipazione. Informazioni all'indirizzo anci.lombardia.it. L'altra Europa. Round the third and headed for home. It's a brown. Europa e sport, le tante facce dello sport in Europa, ma l'Europa c'è con una campagna che sarà lanciata a settembre, ormai è un appuntamento ed è la settimana europea dello sport, quest'anno dal 10 al 17 settembre, tante attività in tante città, l'Italia c'è con una campagna specifica, ne parliamo con Antonio Naddeo, capo dipartimento affari regionali, autonomie e sport della presidenza del Consiglio dei Ministri. Buon sabato Naddeo. Grazie a lei. Allora, una settimana importante, una settimana per sottolineare che lo sport fa bene, lo sport è qualità della vita, è benessere, è relazione, è quotidianità. Certo, il nostro diciamo motto che abbiamo scelto per questa settimana del 2016 è lo sport è vita, praticamente diciamo lo sport è qualcosa che fa star bene, diciamo è qualcosa che insegna l'educazione ai ragazzi, no? a confrontarsi anche da un punto di vista sportivo con altre persone, ad accettare delle regole, accettare i risultati. Lo sport è alla base della nostra vita. Più facciamo sport e più siamo meglio. L'hashtag anche quest'anno è Be Active, yeah. Che insomma è proprio questo, no? Sì. Sì l'agonismo, sì la gara, ma soprattutto l'attività. Poi c'è questa cosa importante che ha detto, che è quella delle regole, perché comunque lo sport è palestra di vita. Sì, è proprio che lei ha detto in maniera molto più efficace della mia, è palestra di vita. Cioè noi immaginiamo la palestra dove si fa sport, ma in realtà lo sport, al di là della palestra, no, all'attività diciamo sportiva, soprattutto appunto dei ragazzi, è una palestra di vita, è un insegnamento per formare i ragazzi. Forse ci vorrebbe più sport anche per gli adulti, anche su questo campo, no, dell'educazione. Certo. E Naddeo, cosa significa oltre a fare una comunicazione? In questa settimana ci saranno eventi un po' in tutta Italia? Beh, noi abbiamo scelto un po' di molte, diciamo, società sportive, molte comuni, amministrazioni hanno presentato le loro idee per diciamo fare delle iniziative appunto per divulgare questa idea dello sport attivo che non è collegato allo sport agonistico. E ovviamente noi diciamo tutto questo è collegato su quattro temi centrali: educazione ambientale, attività fisica sul posto di lavoro, sport all'aperto e attività nei centri sportivi e fitness. Questo sono, diciamo, su questo. E nell'ambito di questo presenteremo delle iniziative proprio in quella settimana, unitamente al CONI, diciamo delle attività che si riferiscono a questi temi centrali della settimana dello sport. È bello che dall'attività fisica sul luogo di lavoro significa ricavare spazi e tempi per fare un po' di sport. Guardi, io lavoro nella pubblica amministrazione, più volte ci siamo posti questo tema, no? Ricavare degli spazi, diciamo, per fare dello sport all'interno dei luoghi di lavoro per un ministeriale, no? Gli dico, questa cosa qui può essere un pochino complicata, nel senso che qualcuno può dire già i ministeriali, i dipendenti pubblici non lavorano, poi gli fate fare pure sport all'interno di un ministero, ecco. No, ma proprio muoversi anche all'interno del luogo di lavoro, cioè favorire per esempio il prendere le scale rispetto all'ascensore. Noi abbiamo in mente alcune attività con, diciamo, alcune iniziative con delle fondazioni che si occupano di attrezzature sportive, sì, e via di seguito, per invogliare i dipendenti a muoversi, arrivare sul luogo di lavoro, che ne so, fermandosi con l'autobus una fermata prima, oppure se è possibile arrivare solo a piedi sul luogo di lavoro, cercare di evitare l'uso dell'ascensore e fare un po' un qualcosa per incentivare i dipendenti a muoversi anche attraverso le applicazioni che ci sono, no, sui televisioni che contano i passi. Il dipendente che cammina di più è quello che può essere premiato simbolicamente, con un'iniziativa all'interno del luogo di lavoro. Muoversi. Certo, lei dice, insomma, se si fanno i chilometri per cercare un Pokémon, si possono fare i chilometri anche pensando alla propria salute, vero? Quello sicuramente. E muoversi è importante. 30 minuti al giorno di camminata veloce fa meglio di tante altre cose, attività sportive, palestre e via di seguito. Questo è lo spirito della settimana europea dello sport e poi avremo modo di tornarci più nello specifico durante questa puntata, ma a settembre anche per andare a conoscere nel dettaglio tutte le proposte. Grazie Naddeo, buona estate. Niente, grazie a lei. Salve. Arrivederci. 60% of Europeans don't do any kind of sport, and probably about 50% of them don't really do enough physical activity to get any sort of health benefit. And that's the motivation why the World Health Organization and the European Commission have kind of come together to say physical inactivity is a massive challenge to the European population. It needs changing. The health is a problem everywhere. If you are not active, then for sure in the future we will have a huge and bigger problem. Questi sono gli obiettivi, sono i principi della settimana europea dello sport. Adesso entriamo nello specifico. Abbiamo preso una città tra le tante città che organizzano eventi, una di quelle che ci sembra più attiva, visto che si parla di attività. Questa città è Bari. Con noi c'è Rita Lorusso, presidente dell'associazione culturale Unione Pro Europe. Ciao Rita, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico. Allora, Bari diventerà una città particolarmente sportiva dal 10 al 17 settembre? Sì, sì, sì. Le attività si svolgeranno in particolare dal 14 al 24 settembre con il progetto appunto Share and Shake, che vede non solo la realizzazione della Settimana Europea dello Sport, ma prevede anche una parte del progetto con la diffusione di un metodo educativo all'interno appunto delle scuole. In cosa consiste? Ah, da qui prende il nome Share and Shake, Shake the Method. In particolare abbiamo il metodo ALCIS, è un metodo promosso dalla Commissione Europea nel 2015, che ha come rappresentante in Italia la Wellness Foundation, ed è un metodo educativo appunto, che promuove l'attività fisica basilare all'interno delle ore curricolari. Il progetto madre, diciamo, è diffuso solo nelle scuole elementari. Noi con il nostro progetto vogliamo diffonderlo anche nelle scuole medie e superiori. E inoltre questa diffusione avverrà anche nelle città partner. Infatti vorrei ricordare che il nostro partenariato prevede, oltre l'associazione Union Pro Europe, anche l'assessorato all'istruzione del comune di Creta, l'assessorato allo sport del comune di Mirandela, un istituto onnicomprensivo della città di Cracovia e poi un'associazione giovanile di Bruxelles. Ma questo vuol dire che ci saranno anche delegazioni di queste città a Bari durante la settimana? Sì. Esatto, perché nella Settimana Europea dello Sport verranno 40 ragazzi appunto provenienti da questi paesi che parteciperanno attivamente alla Settimana Europea dello Sport e favoriranno, diciamo, la cosiddetta peer-to-peer education in relazione alla pratica sportiva. Inoltre, a Bari, Settimana Europea dello Sport significa non solo promozione dell'attività sportiva e quindi praticare sport in luoghi non convenzionali come ad esempio piazze, strade, lungomare e waterfront, ma anche sport come strumento di inclusione sociale. Infatti il progetto Share and Shake prevede l'introduzione di 3 sport innovativi, o meglio che noi abbiamo individuato come innovativi, che sono appunto il flag football, il basking e l'orienteering, perché secondo noi sposano appieno appunto l'idea dello strumento, dello sport come strumento di inclusione, in quanto in questi 3 sport le squadre appunto sono formate da maschi e femmine, da normodotati e non, e soprattutto non c'è più un limite per quanto riguarda la corporatura, la fisicità di una persona. Per cui secondo noi questi sport abbattono diciamo le barriere sociali. Certo, c'è l'inclusione nel senso reale del termine. Unione Pro Europe.org, questo è il sito per conoscere sia l'associazione sia tutte le attività proposte durante la Settimana Europea dello Sport a Bari. Grazie davvero a Rita Lorusso, buona Settimana Europea dello Sport, Rita. Sì, vi invito anche a visitare il sito www.shareandshake.com. Lo faremo sicuramente. Sì. Ciao, buona estate. Ciao, ciao. Ciao Federico, ciao. Adesso un Europost, la pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. Europost-it. Puliamo il mondo. A tutti coloro che hanno a cuore i temi dell'ecologia e del rispetto dell'ambiente. Dal 23 al 25 settembre 2016, in contemporanea in tutto il paese, avrà luogo l'iniziativa Puliamo il Mondo, edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. L'evento è nato a Sydney nel 1989 e da allora coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 paesi. In Italia il coordinamento è nelle mani di Legambiente, che invita le scuole, le aziende, le associazioni e i cittadini ad intraprendere azioni concrete per contribuire a curare il pianeta. Gli aderenti sono invitati a uscire e pulire insieme parchi, giardini, strade, piazze, fiumi e spiagge. Per iscrivervi, proporre iniziative o consultare le iniziative già avviate e tutti i luoghi delle attività, visitate il sito puliamolmondo.it. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. L'altra Europa. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, born to a throne, stronger than Rome. A violent throne, all people's own. But it's my home, all I have known. Where I got grown, streets we would roam. Out of the darkness, I came to. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, @ Federico Taddia, Twitter e Facebook per trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo trattando in questa puntata, dove mettiamo al centro il rapporto tra lo sport e l'Europa da tanti punti di vista diversi. Ovviamente non poteva mancare quello dell'inclusione, e lo facciamo attraverso un progetto che si chiama Sport Plus for All, che vede come referente il centro polifunzionale Donne Calabria di Verona. Con noi il responsabile per le attività di progettazione nazionale ed europea. Diamo il benvenuto a Maurizio Chiappa. Ciao Maurizio. Ciao a te e a tutti i radioascoltatori. Un progetto iniziato il 1 gennaio 2015 che terminerà nel 2017, quindi siamo circa a metà. Di cosa si tratta? Qual è il focus centrale? Il focus del progetto è quello di riuscire, come centro di riabilitazione noi, ma insieme ad altri 6 centri europei di riabilitazione, a fornire ad altri centri e alle strutture sportive europee linee, indicazioni, metodi, esperienze su come poter fare in modo che anche i disabili, così come tutti i cittadini europei, partecipino e facciano più sport. Quindi l'idea è mettere a frutto, attraverso un lavoro di comparazione di esperienze, una serie di metodi e strumenti, e per renderli disponibili, per aumentare la qualità dell'offerta, e quindi ci auguriamo l'accessibilità e anche la partecipazione anche dei disabili, come di tutti i cittadini, allo sport in Europa. In questa settimana, anche realizzando l'altro programma che sto facendo qui su Radio 24, Terra in Vista, ho avuto la possibilità di parlare con diversi atleti paralimpici, i quali mi dicevano, al di là, loro sono atleti, fanno parte della nazionale, quindi grande agonismo, però mi dicevano che c'è proprio ancora una, fammela chiamare, ignoranza da parte di molti disabili, che non si rendono conto, non sanno che possono fare sport, cioè c'è veramente, ci sono gli strumenti, ci sono le attrezzature, ci sono le protesi giuste. È vero, ed è in questo ambito anche che state cercando di fare educazione? Guarda, credo che i tuoi colleghi avessero assolutamente ragione. Noi ci troviamo davanti a una contraddizione apparente, cioè di una miriade di offerte, miriade di progetti, miriade di programmi, e comunque c'è una barriera che alla fine forse non è solo di metodi, di tecniche, di strumenti, ma è anche un po' di di cultura. Noi lavoriamo su due aspetti. Intanto siamo dei centri di riabilitazione che lavorano già con persone con disabilità da anni. Uno è quello di perfezionare, mettere a punto strumenti di qualità superiore, ma poi soprattutto di far fare un passaggio insieme a loro, perché lavoriamo con le associazioni dei disabili, che è quello di uscire dalla logica, perdonami il termine, parasanitaria dello sport. Sì. Considerare che lo sport è qualità della vita, è benessere psicofisico. Purtroppo l'esperienza delle persone con cui lavoriamo noi spesso è di persone che vengono da periodi di riabilitazione, magari o periodi di difficoltà, e fanno fatica a fare il salto e considerare quindi la normalità dello sport anche per loro. Infatti la maggior parte delle esperienze che stiamo facendo sono proprio esperienze, cioè sperimentiamo fare sport dentro i circuiti riabilitativi, in modo tale che se ne comprenda il valore non solo medico sanitario, ma soprattutto il valore sportivo e il valore anche del tempo libero e il valore della socialità. Quindi parliamo di transizione. Noi abbiamo fatto un convegno su questo di presentazione del progetto che si chiamava Dalla riabilitazione allo sport. È un passaggio per noi centri di riabilitazione per primi, per le strutture sportive e anche per le persone con disabilità. Certo. Lo sport è un diritto di tutti, va considerato come sport. Mm-hmm. Questo è il passaggio, l'esperienza che cerchiamo di fare in questi 30 mesi in 7 paesi, coinvolgendo numerose organizzazioni. Quindi infatti leggevo, insomma, Lituania, Portogallo, Germania, Estonia, Spagna, Irlanda del Nord sono le nazioni partner. C'è una cultura comune, ci sono differenze sostanziali da una nazione all'altra? Allora, la prima differenza è il concetto di disabilità. Okay. Questo lo sappiamo perché noi non è il primo progetto che diciamo la disabilità, ma diciamo comprende anche lo sport. Per noi la disabilità è quella persona che ha chissà quale problema. Al nord, soprattutto nel nord Europa, la disabilità è qualsiasi limitazione, impedimento psicofisico. Sì. E questa è una prima cultura. E quindi, per assurdo, ci sono molto più disabili, ma sono anche molto più facilmente inclusi. Perché hanno loro stessi un diverso rapporto con la struttura. Con la struttura. Questa è la prima differenza. La seconda è il problema del welfare. Noi ci stiamo battendo, una delle ultime passaggi, quando avremo fatto questa esperienza ci auguriamo di portare degli elementi positivi anche a per noi, prima di tutti, ma anche ad altri, è quello di chiedere alle autorità pubbliche che si lavori, si riesca a investire sugli strumenti di compensazione delle difficoltà. Faccio un esempio molto semplice. Secondo noi una persona con disabilità deve pagare la piscina, mm-hmm. ma non deve pagare il sollevatore, perché se la differenza o la sua difficoltà è che gli serve il sollevatore deve essere in qualche modo recuperato dalla collettività, ma lui deve pagare il biglietto di ingresso in piscina. Certo. Questo è il modello che ci interessa. Quindi c'è un fraintendimento di fondo su queste cose, no? Si va al cinema, il disabile non paga l'accompagnatore, sì. No, è il contrario. In realtà la persona dovrebbe pagare, è l'accompagnatore che non deve pagare perché sta cercando semplicemente di recuperare una difficoltà. Eh sì, insomma, sono piccole differenze, ma sono differenze culturali sostanziali, sì, sì, che fanno davvero la differenza. Grazie davvero a Maurizio Chiappa, complimenti per l'ottimo lavoro. A te e a tutto il tuo team. Grazie a voi, a presto. Ciao, buona estate. Ciao, ciao. Europost-it. Torna il label europeo delle lingue. A tutti gli insegnanti, le scuole e le organizzazioni che si occupano di didattica delle lingue. Come ogni anno, torna il Label Europeo delle Lingue, un riconoscimento che premia le nuove iniziative nel settore dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue, nella creazione di nuovi metodi didattici e nella promozione delle lingue regionali e minoritarie. Il premio, che ha l'obiettivo di migliorare gli standard dell'insegnamento linguistico in Europa, viene assegnato due volte l'anno al progetto di apprendimento più innovativo, alla persona che ha compiuto i progressi maggiori nell'apprendimento delle lingue straniere e al miglior insegnante di lingue. La scadenza per la prossima candidatura dei progetti è il 26 settembre 2016. Tutte le informazioni sul sito labeleuropeolingue.it. Ancora sport, ancora sportivi, o meglio, ex sportivi, perché il progetto europeo che stiamo andando a conoscere è molto particolare. L'obiettivo è quello di realizzare un approccio innovativo relativamente alla carriera post sportiva degli atleti professionisti. Un progetto europeo Erasmus Plus si chiama Aftermatch, vede la partecipazione di Slovenia, Grecia, Bulgaria, Polonia e Italia. E l'ente proponente proprio italiano è 4COP Cora Venezia. Con noi Patrizia Loiola, referente metodologica del progetto. Ciao Patrizia, benvenuta. Ciao, benvenuti, grazie a voi. Intanto, come nasce l'idea? Perché pensare proprio agli atleti professionisti una volta che l'età, un infortunio, comunque gli eventi della vita dicono basta, è finito il tuo tempo? Ma nasce da una serie di riflessioni con nostri partner con cui collaboravamo già a livello europeo e dalla nostra ventennale esperienza nell'ambito della valorizzazione delle competenze delle persone. E con alcuni contatti con altre organizzazioni con cui lavoriamo abbiamo fatto questo focus e abbiamo veramente scoperto che il post carriera per gli atleti è molto spesso una situazione difficile da gestire. Ma è difficile da gestire dal punto di vista economico o dal punto di vista psicologico? Ambedue, perché quando sono concentrati, ovviamente parliamo di atleti, di elite atleti, quindi di atleti che hanno gareggiato almeno per 5 anni a livello nazionale e oltre, ovviamente fino al campione olimpico, e sono talmente tesi e concentrati nel risultato agonistico, sia loro che gli allenatori, che tutto lo staff, che il problema del post carriera praticamente non esiste o solo per pochissimi. Mm-hmm. Però insomma, una volta che finiscono la carriera sportiva, alcuni rimangono nel mondo dello sport, ma solo una piccola parte. Per gli altri c'è la necessità di costruirsi una seconda carriera, come ci ha detto Andrea Zorzi proposito di questo. Aftermatch.net è il sito del progetto. Esatto. E Patrizia, di fatto cosa... È un lavoro di ricerca, un lavoro di selezione di buone pratiche, di esperienze, di indirizzi? Sì, noi analizziamo le storie di vita, ogni paese analizza 50 storie di vita di ex atleti e atleti alla fine della carriera. Da questo andiamo a focalizzarci su quali sono le competenze che sviluppano e quindi che possiamo valorizzare e poi andiamo a coinvolgere e sensibilizzare le aziende con una serie di interventi anche formativi rivolti agli allenatori, agli insegnanti a scuola e ai responsabili delle risorse umane delle aziende. Mm-hmm. Questo per avvicinare competenze e professionalità, cioè quando dici aziende vuol dire aziende sempre inerenti al settore sportivo o qualsiasi tipo di azienda? Qualsiasi tipo di azienda. Faccio un esempio, abbiamo intervistato un responsabile di risorse umane che ci ha detto: certo che io sarei propenso ad assumere o inserire nella mia organizzazione un atleta perché so che ha competenze che ha sviluppato elevate durante la carriera sportiva, però se non me lo scrive banalmente nel suo curriculum io non glielo vado a chiedere. Certo. Patrizia, una domanda banale, ma ci sono sport meglio di altri per la carriera post sportiva? Cioè ci sono sport che sono più formativi, diciamo, in chiave professionale? Beh, sicuramente gli sport di gruppo hanno un valore in più, però anche insomma gli sport individuali permettono all'atleta di rafforzare molte skill interessanti. E il desiderio solitamente è quello di cambiare completamente settore o di rimanere comunque legati all'ambito sportivo? Per molti sarebbe interessante rimanere legati, per alcuni invece, per altri è interessante cambiare, perché la carriera sportiva è comunque molto impegnativa, cambiare ma poter valorizzare, come dire, riciclare quella che è stata l'esperienza passata. Quindi c'è proprio il desiderio di ottimizzare un po' quello che è stato fatto, un po' anche per rimanere probabilmente in un ambiente che si conosce e che quindi insomma ti senti protetto di fatto. Esatto, esatto. E che molti, infatti, proprio per questo senso di protezione, pensano molto tardi alla post-career. Ad esempio, emerge insomma dalla ricerca che cominciano a pensarci quando hanno i primi infortuni importanti. Okay. Perché allora si rendono conto che potrebbe esserci un problema nel continuare la carriera sportiva. Certo. Aftermatch.net è il sito, ve lo ripeto, per conoscere nel dettaglio il progetto. Grazie a Patrizia Loiola di 4COP Cora Venezia. Buona estate. Grazie a voi, arrivederci. Un Europostit e ci fermiamo per il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Terzo forum della microfinanza. Siete interessati al tema della microfinanza e del microrisparmio? A Roma dal 19 al 21 ottobre torna la terza edizione del Forum Europeo della Microfinanza. In programma incontri e dibattiti tra istituzioni pubbliche, operatori del settore privato e organismi non profit competenti in materia di sviluppo economico e sociale e di accesso al credito. Tra gli ospiti, molte autorità politiche italiane ed europee, intermediari ed esperti del settore. L'Unione Europea individua nel microcredito uno strumento di welfare innovativo, basato su una stretta e sostenibile collaborazione pubblico-privata e ha molto a cuore il dibattito sull'argomento. Il forum sarà concentrato sulla condivisione di buone pratiche e networking. Programma e dettagli sul sito microcredito.gov.it/mff. L'altra Europa. Ancora Europa e sport con un progetto, un altro progetto europeo promosso dal Centro Sportivo Educativo Nazionale, il CSEN, si chiama Movement Valorize Europe. Il progetto si parla quindi di sport di base, di divulgazione, di diffusione, di educazione allo sport. Con noi Andrea Bruni, responsabile del progetto per il CSEN. Ciao Andrea. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto, che cos'è il Centro Sportivo Educativo Nazionale? Allora, il CSN è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero delle Politiche Sociali. Quindi svolge un'attività sul territorio attraverso i propri comitati di promozione dello sport di base, di avviamento e di diffusione dello sport, come dicevi tu, proprio di educazione allo sport e quindi alla pratica motoria. Mm-hmm. E appunto quindi insomma uno di quegli enti che fanno sport sul territorio, ma anche ricerca, e credo che Movement come progetto vada proprio in questa direzione. Fa ricerca nel senso che in particolare questo progetto nasce da una indagine interna tra gli istruttori delle varie attività sportive e nel quale tempo fa è emersa la necessità di avere anche delle competenze di tipo educativo, pedagogico, di accoglienza anche dei giovani in particolare e degli anziani. Quindi è un progetto mirato su queste fasce di età. E da questa richiesta formulata dagli istruttori sportivi è nata l'idea di elaborare un percorso formativo nel quale le competenze sportive siano inserite dentro un ambito più propriamente educativo, quindi lo sport non solo come benessere fisico della persona, ma anche come educazione alla vita, rispetto dell'altro, non solo in forma retorica come spesso sentiamo, ma dando proprio all'istruttore sportivo le competenze per fare quello. Quindi sono loro i soggetti protagonisti del progetto? In I protagonisti sì, del progetto sono principalmente gli istruttori sportivi, quindi il progetto prevede tutta un'indagine europea con diversi paesi, con la Bulgaria, con la Polonia, con la Grecia, e anche nell'idea di conoscere le diverse sfumature, che a volte non sono solo sfumature, sono proprio diversità concrete della formazione che in ogni paese si svolge per diventare allenatore, tecnico sportivo, istruttore. Quindi con loro si fa un percorso di accoglienza della richiesta degli strumenti che possono essere utili per lavorare con particolari fasce di età. Come dicevo certo. prima, insomma, sono appunto l'infanzia, l'adolescenza e gli anziani. Nuove competenze quindi per gli allenatori. È Claudio Ranieri il vostro mito? Certo, c'è qualcosa di interessante in quell'esperienza, insomma, c'è qualcosa di interessante, però appunto lì è fatto su un percorso tipicamente sportivo, ossia il successo. Sì. Il successo è dato dalla vittoria sportiva, e quella è una cosa. Di qua noi parliamo della vittoria della persona, per cui una persona che si sente più soddisfatta della vita che svolge, una persona che sa stare in socialità nell'ambiente dove vive e che ricerca quel se stesso che gli consente poi di essere un attore concreto nella vita quotidiana. Insomma, quindi la vittoria più che sul gruppo diventa anche una vittoria individuale, per saper stare poi nel gruppo, nella società, nella vita di tutti i giorni. E questo è lo sport che ci piace vedere nei campetti, che sono poi insomma i grandi protagonisti, no? Dove veramente tutti possono fare sport. csnprogetti.it è il sito per conoscere tutti i progetti del CSN. Grazie davvero ad Andrea Bruni, buona estate. Grazie anche a voi. Europost-it. Stage al Parlamento Europeo. Sei alla ricerca di un'esperienza lavorativa internazionale? Ogni anno il Parlamento Europeo offre la possibilità a centinaia di giovani di effettuare un periodo formativo di 4-5 mesi nella propria sede di Bruxelles. Il prossimo turno di tirocini di formazione per neodiplomati avrà inizio il 1 gennaio 2017, con periodo di domanda e selezione tra il 1 agosto e il 1 ottobre 2016, mentre il prossimo turno per neolaureati andrà dal 1 marzo 2017 al 31 luglio 2017, con periodo di domanda e selezione tra il 15 agosto e il 15 ottobre 2016. Gli stage prevedono un rimborso spese. I candidati devono essere cittadini europei maggiori di 18 anni e avere una conoscenza approfondita di almeno una lingua ufficiale dell'Unione. Sono disponibili tirocini in diversi campi, tutti consultabili nella sezione Lavorare al Parlamento del sito europarl.europa.eu. Non solo lo sport al centro dei progetti europei, ma anche il tifo. Si chiama Club e Tifosi per una migliore gestione del calcio, un progetto coordinato da Supporters Direct Europe, che è il network europeo dei supporter e dei tifosi. Ne parliamo con Giuseppe Abbamonte, consigliere d'amministrazione e società sportiva Cooperativa per Azioni Cava Unite. Buongiorno Giuseppe, benvenuto all'Altra Europa. Sì, buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Intanto, cos'è Cava United? Cava United è un nuovo modello di intendere una società di calcio. Di fatto lo definiamo il primo community club italiano. Si tratta appunto, come dicevi giustamente, di una forma cooperativa per azioni, e di fatto questa società sportiva è controllata da un supporters trust denominato Sogno Cavese, che appunto raccoglie tutti i tifosi e i supporters del Cava United, che per contro sono anche soci e attivamente impegnati nella gestione della società di calcio. E cos'è un insieme di visionari, un insieme di appassionati, un insieme di sportivi? Oppure volevate applicare un modello nuovo di cooperazione? Avete scelto proprio lo sport come campo di gioco? Qual è l'incipit? Guarda, grazie a Dio non siamo soli, peraltro ecco, ti parlo anche in qualità di membro del Consiglio di Coordinamento di Supporters in Campo, che è appunto un'organizzazione ombrello nazionale che raggruppa una serie di realtà molto simili a Sogno Cavese. Quindi ti direi che ormai da un po' di anni è attivo in Italia un movimento che va via via crescendo di persone che si associano, i tifosi di squadre di calcio, che aspirano ad entrare nel capitale sociale delle società di calcio, e di fatto ci sono già degli ottimi risultati raggiunti nel corso di questi anni, ecco. E quindi ti direi che è sempre più viva nei tifosi questa esigenza, in quanto anno dopo anno, in particolare nelle serie minori, ma non solo, si assiste a continui cambi di società, continui fallimenti, a ripartenze dalle serie più basse, alla scomparsa anche di quelle che sono le denominazioni storiche, i simboli che di fatto non sono soltanto come dire asset di pertinenza di una società di calcio, ma sono per i tifosi un valore significativo e per la comunità di riferimento altrettanto un qualcosa di importante. Ecco. Assolutamente. Il calcio della gente.it è il sito di Cava United, www.supporters.in/campo.org invece per conoscere le attività del cappello sotto cui sta questa società. E invece Club e Tifosi per una migliore gestione del calcio, di cosa si tratta questo progetto europeo? Guarda, si tratta, di fatto fa parte della misura Erasmus Plus, e in particolare appunto è dedicata allo sport, ed è un ottimo progetto che abbiamo avuto, insomma, come dire, l'onore di essere poi i rappresentanti per l'Italia come club, in quanto Cava United, rispetto a questo progetto. Ed è un progetto che di fatto vuole formare, informare e produrre anche una serie come dire di documenti poi da poter condividere con chiunque fosse interessato alle tematiche, su quello che è appunto la buona governance di una società di calcio, la sostenibilità finanziaria e soprattutto il coinvolgimento e la partecipazione attiva e democratica dei tifosi. Di fatto riunisce associazioni nazionali di diversi paesi, quindi parliamo appunto di sicuramente di Italia, parliamo di Spagna, Germania, Irlanda, Regno Unito e Francia, e una serie di società sportive che sono interamente gestite da supporters trust e da tifosi, declinati poi da un punto di vista, come dire, giuridico, secondo quelle che sono le specificità di ciascun paese. E abbiamo, come dire, l'onore di sedere al tavolo con club importantissimi, quali lo Schalke 04 per intenderci, e ti direi che nella prima fase la cosa più interessante è stato comunque comprendere quanto poi di fatto, a prescindere dalla categoria, a prescindere dalle singole specificità territoriali, ci sia modo di confrontarsi su queste tematiche e di come dire avere poi un grosso scambio, no, rispetto a quelle che sono le rispettive esperienze. Sì, insomma, far circolare le buone pratiche, che è sempre uno degli obiettivi di questi progetti europei. Esattamente. Grazie Giuseppe, insomma la stagione è alle porte, mancano poche settimane e si riparte. Il calcio è della gente.it, il sito del Cava United, per conoscere nei dettagli questa bella esperienza. Ciao Giuseppe, buona estate. Ciao, grazie, ciao. Grazie. L'altra Europa. In collaborazione con Euronet Plus.